ottavo. Sessantotto. L'apostolo dunque si avviò sulla strada per andarsene, mentre tutti l'accompagnavano piangendo e scongiurandolo per il Signore di ricordarsi di loro nelle sue preghiere e di non dimenticarli. Salito sul carro del generale, l'apostolo si sedette, mentre i fratelli rimasero dietro di lui. Si accostò allora il generale e disse all'auriga: "Io sia degno, ti prego, di sedere ai piedi del Figlio di Dio, Gesù Cristo, di essere il suo auriga lungo questa strada conosciuta da molti, affinché egli sia la mia guida lungo quella strada che solo pochi percorreranno." 69. Dopo aver percorso circa un miglio, Giuda Tommaso supplicò il generale, lo fece alzare e sedere a fianco a lui, e ordinò poi all'auriga di andarsi a sedere al suo posto. Mentre percorrevano la strada e Giuda conversava con il generale, le bestie, stanche per la lunghezza del percorso, si fermarono rifiutandosi di proseguire. Il generale, gravemente rattristato, pensava di correre a piedi alla ricerca di altre bestie, oppure altri cavalli, ovunque avesse potuto trovarle, avendo ormai solo più poco tempo. Visto ciò, l'apostolo gli disse: "Non temere, non agitarti, credi soltanto in Gesù, come già ti dissi, e vedrai grandi meraviglie." Il generale rispose: "Io credo in lui, e credo che a lui è possibile tutto ciò che gli si chiede." Giuda vide allora un branco di asini selvatici che stavano pascolando a una certa distanza dalla strada principale e disse al generale: "Se credi in Gesù, va dal branco e di' Giuda, l'apostolo di Gesù Cristo, figlio di Dio, ordina che vengano quattro di voi perché io ne ho bisogno." 70. Pieno di paura perché erano molti, il generale andò e più si avvicinava più essi gli venivano incontro. Quando gli furono vicini, disse loro: "Giuda Tommaso, apostolo di Gesù Cristo, ordina, quattro di voi vengano con me perché ne ho bisogno." A queste parole si affrettarono a correre da lui tutti e, per disposizione del Signore, appena giunti gli si prostrarono davanti. Allora Giuda Tommaso, apostolo del Signore, alzò la sua voce di lode dicendo: "Tu sei glorioso, Dio di verità e Signore di tutti gli esseri, già che tu con la tua volontà hai voluto e hai fatto tutte le tue opere, hai perfezionato tutte le tue creature, le hai inquadrate nell'ordine della loro natura e hai posto su di loro il tuo timore affinché siano sottoposte al tuo comando. La tua volontà ha preso il sentiero che conduce dal tuo nascondimento alla manifestazione e, provvedendo a ogni anima da te creata, fu manifestata dalla bocca di tutti i profeti con ogni genere di visioni, di suoni e di voci. Ma a motivo della sua cattiva inclinazione, Israele non obbedì. Ma tu, essendo il Signore di tutto, Hai cura delle creature e spandi su di noi la tua misericordia per opera di colui che, per tuo volere, è venuto e si è rivestito del corpo, tua creatura, da te voluto e formato secondo la tua gloriosa sapienza. A colui che nel tuo segreto hai designato e nella tua manifestazione hai stabilito, hai dato il nome di Figlio, egli era la tua volontà e la potenza del tuo pensiero. Così voi siete in vari nomi, Padre, Figlio e Spirito Santo, per il governo delle tue creature, per nutrire tutti gli esseri, ma siete una sola persona nella gloria, nella potenza e nella volontà, siete divisi senza essere separati, siete una persona sebbene siate divisi. Tutto sussiste per opera tua e ti è soggetto, perché tutto è tuo. Io confido in te, Signore, che con il tuo comando hai assoggettato, nella necessità, queste mute bestie per manifestare la potenza del tuo governo su di noi e su di esse affinché il tuo nome fosse glorificato in noi e in queste bestie senza parola. Dette queste cose, rivolto agli asini selvatici, proseguì: pace a voi che avete obbedito alla parola sovrana. Vengano quattro di voi e si lascino a giogare in luogo di queste bestie che si sono fermate e non possono più proseguire. Ogni asino selvatico si avvicinò e pressava per essere aggiogato, tra di essi ce n'erano alcuni più forti degli altri, e questi furono aggiogati, mentre tutti gli altri presero a seguire o a precedere l'apostolo. Dopo un breve tratto di strada, egli disse loro: «Mi rivolgo a voi, abitatori del deserto. Fermatevi, andate ai vostri pascoli. Se infatti avessi avuto bisogno di voi tutti, so che sareste venuti tutti con me. Ora però ritornatevene al luogo ove eravate». Gli asini selvatici se ne andarono tranquillamente e scomparvero dalla vista. 71. L'apostolo, il generale e gli asini. Sulla carrozza sedeva l'apostolo con il generale e l'auriga. Gli asini selvatici procedevano poco alla volta tranquillamente e con dolcezza per non dare scossoni all'apostolo di Dio. Raggiunta la porta della città, individuarono la casa e si arrestarono davanti al cortile del generale. Stupito, il generale esclamò: «Sono incapace di parlare e di raccontare ciò che è accaduto. Se avverrà ancora un prodigio, allora io racconterò tutto». Avendo visto gli asini selvatici aggiogati alla carrozza e avendo udito la fama dell'apostolo che era giunto là, tutti gli abitanti della città si facevano avanti. L'apostolo disse al comandante: «Dov'è casa tua? Dove ci conduci?» Il generale rispose: «Sai che ti trovi alla porta del tuo servo, e queste bestie, che per tuo ordine sono venute con te, lo sanno meglio di me». 72. Ciò detto, l'apostolo prese a dire: «Gesù, conoscenza di colui che in questo paese è sconosciuto, Gesù, voce di colui che in questa città è straniero, Gesù, che in questa gente sei straniero. Gesù, che hai inviato il tuo apostolo in ogni paese e in ogni città, che sei glorificato in lui e che per mezzo suo sei manifestato a tutti coloro che ne sono degni. Gesù, che ti sei rivestito del corpo, sei divenuto uomo e sei apparso a tutti noi affinché non ci potessimo allontanare dal tuo amore. Signore nostro, che ci hai dato te stesso, che ci comperi con il tuo sangue e ci acquisti per te quale proprietà acquisita a caro prezzo. E che cosa noi gli possiamo dare per la sua vita? Egli diede, infatti, a noi la sua vita. Non c'è nulla che ci appartenga né gli chiede a noi qualcosa, eccetto che noi lo preghiamo per poter vivere. 73. Quando egli ebbe finito di dire queste cose, molti erano giunti da ogni parte per vedere l'apostolo del nuovo Dio, che era venuto. Giuda disse, «Perché restiamo qui oziosi? Che cosa vuoi tu, Gesù? Ordina il tempo e porta l'opera a compimento. La donna, la figlia e il demone». 10 demoni stavano infierendo sulla donna e sulla figlia, e i servi del generale ritenevano che non avrebbero resistito giacché non le lasciavano mangiare e mantenendole continuamente stese sul letto, irriconoscibili a tutti fino al giorno in cui venne l'apostolo. L'apostolo disse allora a uno degli asini selvatici che stavano aggiogati alla destra, «Entra nel cortile e chiama quei demoni e di loro, l'apostolo Giuda, discepolo di Gesù Cristo ordina di venire fuori di lì, essendo stato io mandato per voi e contro la vostra genia, per condurvi al vostro posto fino a che venga il tempo della consumazione e ve ne andiate nel vostro abisso». 74. Alla presenza di una folla di persone, l'asino selvatico entrò e disse, «Mi rivolgo a voi, nemici dell'umanità. Mi rivolgo a voi, che chiudete gli occhi alla luce per non vedere, perché la natura del male non può restare con il bene. Mi rivolgo a voi, progenie della Geenna e dell'Abaddon, figli di colui che fino a oggi non è mai sazio del male, che produce continuamente dei servi maligni secondo la sua natura. Mi rivolgo a voi, audaci perversi che perirete di vostra propria mano. Che dire a proposito della vostra fine? Non lo so. Quello che vorrei dire sono incapace di esprimerlo. Tali cose sono gravi per essere udite e sorpassano ogni misura giacché, per quanto grandi siano i vostri corpi, sono ancora troppo piccoli per le vostre retribuzioni. Mi rivolgo a te, demone, e a tuo figlio che ti accompagna, essendo stato ora mandato contro di voi. Ma perché prolungo il mio dire sulla vostra natura? Voi la conoscete più di me e siete sfrontati. Giuda Tommaso, discepolo di Gesù Cristo, egli che mi ha inviato qui con misericordia e grazia, ordina. Uscite fuori davanti a questa folla qui presente e ditemi di quale razza siete. 75. In quel momento uscirono la donna e sua figlia dall'aspetto simile a un morto, nude e sfigurate. Appena le vide, l'apostolo ne fu rattristato e disse: «Non v'è stata usata pietà alcuna? Perciò avete una conoscenza limitata. Nel nome di Gesù Cristo allontanatevi da esse e mettetevi al loro fianco». Allorché l'apostolo si espresse con queste parole, le donne caddero a terra e parvero morte. In esse non v'era più respiro né emettevano più alcun suono. Il demone alzò la voce e gridò: «Sei nuovamente qui, tu che rimproveri la nostra natura? Sei nuovamente qui, distruttore della nostra razza? Sei nuovamente qui, tu che cancelli le impronte dei nostri piedi?» «A quanto vedo, non vuoi proprio lasciarci sulla terra, ma per ora tu non riesci a fare questo». 76. L'apostolo capì che quello era il demone che aveva scacciato da quell'altra donna. E quello proseguì: «Lasciami andare, te ne prego. Andrò e dimorerò dove tu vuoi, prenderò gli ordini da te e non avrò paura di colui che ha autorità su di me, già che tu sei venuto a visitare e a fare il bene, così come io sono venuto per distruggere. Come tu sei riprovato se non adempi la volontà di colui che ti ha mandato? Così anch'io se non eseguisco la volontà di colui che mi ha mandato seguirò prima del tempo il destino della mia natura. Come il tuo Signore ti aiuta nelle cose che tu compi, così il Padre mio mi sostiene nelle cose che faccio. Come egli ti prepara degli strumenti degni che gli abiti in essi, così egli mi fa conoscere degli strumenti che gli siano obbedienti, in modo che io compia in essi la sua volontà. Come egli nutre e provvede a te e a quanti ti obbediscono, così tortura e tormenta me e quelli nei quali io dimoro. Come a te gli dà la ricompensa del tuo lavoro, cioè la vita perpetua, così anche a me dà la ricompensa per le mie azioni, cioè la perdizione perpetua. Come tu godi per le tue preghiere, per le tue opere buone e per l'Eucaristia, per i canti di lode a Lui, per i salmi e gli inni, così io godo per gli omicidi, per gli adulteri, per i sacrifici e le libazioni di vino sugli altari. Come tu indirizzi gli uomini alla vita perpetua, così io indirizzo gli uomini a me, alla perdizione e al tormento perpetui. Tu ricevi la tua ricompensa, io la mia. 77. Dopo che il demonio ebbe finito di dire queste cose, l'apostolo rispose: «Per mezzo mio, Gesù dice a te e a tuo figlio che non entrerete più in una abitazione umana. Uscite e andate a dimorare lungi da qualsiasi abitazione umana». I demoni gli risposero: «Obbediamo a quanto ci hai comandato, ma a quelli che ti sono nascosti che cosa farai?» Essi gioiscono nei loro strumenti più dite. Sono venerati dalla gente che compie la loro volontà sacrificando loro, versando loro libazioni di vino e offrendo sacrifici. L'Apostolo rispose: alla fine periranno anch'essi con i loro adoratori. Inutilmente si cercarono i demoni. Di loro non v'era più traccia, mentre le donne giacevano come morte, senza parola. 78. Gli asini selvatici se ne stavano l'uno a fianco all'altro senza staccarsi. Ma quello al quale la potenza di nostro Signore aveva dato la parola se ne stava davanti ai suoi compagni. E allorché tutta la gente lo guardava in silenzio nell'attesa di vedere quanto avrebbe fatto l'Apostolo, l'asino selvatico, guardando la gente, disse all'Apostolo: perché te ne stai lì ozioso, Apostolo dell'Altissimo? Al tuo fianco c'è il Paraclito in attesa di ciò che gli chiederai per dartelo. Perché indugi, buon discepolo? Il tuo maestro desidera mostrare grandi cose per mezzo tuo. Perché te ne stai immobile, predicatore di colui che è nascosto? Il tuo maestro desidera svelare, per mezzo tuo, la sua nascosta natura a quelli che sono degni di udire queste cose. Perché te ne stai quieto, tu che nel nome del tuo Signore operi prodigi? Il tuo Signore è a fianco a te per infonderti coraggio. Non temere. Egli non ti abbandonerà, la sua divinità non permetterà che la tua umanità sia tormentata. Inizia, dunque, a invocarlo ed egli ti ascolterà come è solito fare in ogni tempo. Perché ti attanaglia lo stupore davanti alle sue molteplici opere? Le cose operate per mezzo tuo sono piccole. Se vuoi enumerare i suoi doni non sarai capace di giungere alla fine. Perché ti stupisci a proposito delle guarigioni corporali che hanno un termine, mentre tu ricordi quella sua guarigione che non ha fine? Perché valuti l'amore temporale, mentre puoi riflettere ogni giorno sulla vita perpetua? 79. Voi gente qui presente nell'attesa di vedere la risurrezione di costoro che sono prostrate, credete nel Maestro della Verità, credete in colui che vi incammina verso il vero, credete nel Rivelatore dei Segreti, credete nel Dimostratore della Vita, credete all'Apostolo eletto di Gesù, credete al Figlio, Gesù Cristo, che è nato affinché coloro che sono nati vivano in virtù della sua nascita, è cresciuto affinché per mezzo suo apparisse la crescita perfetta. È andato a scuola affinché per mezzo suo fosse nota la sapienza perfetta. Insegnò al suo maestro perché egli era il maestro della verità e l'insegnante dei saggi. Andò nel tempio e offrì un sacrificio affinché apparisse manifesto che tutti i sacrifici sono santificati da lui. Questo è il suo apostolo, questo è l'apostolo della verità. Questo è colui che compie la volontà di colui che l'ha mandato. Ma verrà un tempo nel quale appariranno falsi apostoli, profeti bugiardi la cui fine sarà come quella delle loro azioni, e vi diranno: attenti ai peccati, mentre essi non faranno che commettere peccati, indosseranno la veste dell'agnello mentre dentro sono lupi rapaci, non si accontenteranno di prendere legalmente una moglie. Ma con le loro parole e con le loro azioni corromperanno molte donne, non genereranno bambini, ma corromperanno molti bambini e per questo ne sconteranno la pena. Saranno addolorati a motivo della felicità degli altri e godranno della loro angustia, ai quali non basta quanto possiedono e desidereranno che tutto sia al loro servizio ed essere considerati come discepoli di Cristo. Nella loro bocca c'è una cosa e un'altra nel loro cuore. Esortano a evitare le cose odiose, ma intanto non compiono una sola azione buona. Davanti a loro l'adulterio, il furto, l'oppressione e l'avidità sono odiosi, ma, segretamente, compiono tutto ciò che predicano di non fare. 80. Invocazione. Mentre esso diceva queste cose, tutti gli asini selvatici lo stavano osservando e, quando rimase zitto, Giuda disse: «Che cosa debbo pensare del tuo servo Gesù? Come ti debbo invocare? Non so. Tu sei dolce e silente, sei quieto e loquace. Tu vedi quanto c'è nel cuore, indaghi ciò che c'è nella mente. Gloria a te, misericordioso. Gloria a te, parola viva, gloria a te, nascosto e multiforme. Gloria a te, misericordia che ha abbondato su di noi. Gloria a te, grazia discesa su di noi. Gloria a te, grandezza divenuta piccola per noi. Gloria alla tua sublimità divenuta umile per noi. Gloria alla tua forza, divenuta debolezza per noi. Gloria alla tua divinità, che per noi si è rivestita di umanità. Gloria alla tua divinità che fu fatta la nuova per noi, e morì per dare a noi la vita. Gloria alla tua risurrezione dal sepolcro, affinché noi possiamo risorgere e salire in alto. Gloria alla tua ascensione in cielo con la quale tu ci hai preparato la strada verso l'alto, dopo averci promesso e giurato che saremo seduti alla tua destra e alla tua sinistra, e saremo giudici insieme a te. Tu sei la parola del cielo. Tu sei la luce nascosta dell'intelligenza, lo studio del sentiero della verità, colui che disperde le tenebre e distrugge l'errore. 81. Dopo aver detto queste cose l'apostolo andò dalle donne che stavano là, e disse: «Mio Signore e mio Dio Gesù Cristo, io non dubito di te, bensì ti invoco giacché in ogni tempo tu ci hai dato aiuto, conforto e coraggio. Datore della franchezza di parola e della gioia al tuo servo e apostolo, fa che queste donne siano guarite, si alzino e tornino a essere come erano prima che fossero colpite dai demoni». A queste parole, Le donne si volsero in su e si sedettero guarite. Giuda ordinò al generale di farle accompagnare a casa dai suoi servi e di dare loro da mangiare. Dopo che esse furono prese e portate via, egli disse agli asini selvatici: «Seguitemi!» Gli andarono dietro ed egli li condusse fuori della porta. Appena usciti, disse loro: «Andate in pace ai vostri pascoli!» Gli asini selvatici se ne andarono tranquilli, mentre l'apostolo restava a guardarli, badando che nessuno facesse loro del male, fino a quando scomparvero dalla vista e non furono più visibili. Atto 9 82 Ritornato da loro, Giuda, con una grande moltitudine, andò in casa del generale. Una donna, di nome Migdonia, parente del re, venne a vedere il nuovo aspetto del nuovo Dio che era predicato e del nuovo apostolo che era giunto nel loro paese. Sedeva in una lettiga portata dai suoi servi. A motivo della grande ressa non riuscirono a portarla vicino a lui. Lei allora lo mandò a dire a suo marito, il quale inviò degli ufficiali che la precedessero e tenessero dietro la folla. Appena l'apostolo vide questo, disse loro: «Perché trattate male questa gente venuta a sentire la parola? Perché volete allontanarli con il desiderio di venire voi qui vicino a me, voi che siete così lontani?» A queste moltitudini che vengono a me nostro Signore dice: «Voi avete orecchie, ma non udite, avete occhi, ma non vedete? Ed ancora, venite a me, voi tutti che siete stanchi e aggravati, e io vi darò riposo.» 83. Encratismo. E rivolto a quegli uomini, disse: «La benedizione pronunziata all'indirizzo di quelli è caduta su di voi che state portando. Voi, infatti, siete sotto un grave peso mentre lei vi dirige con il suo comando. Sebbene Dio vi abbia creato uomini, gli uomini vi fanno portare dei pesi gravi come se foste bestie. Quelli che vi sono superiori per natali pensano in cuor loro che voi non siate uomini come essi, ignorano che davanti a Dio tutti gli uomini sono uguali, siano liberi o schiavi. Giusto è il giudizio di Dio con il quale saranno giudicate tutte le anime della terra, nessuna esclusa, siano esse schiave o libere, ricche o povere. Quelli che hanno non ne trarranno alcun vantaggio, e quelli che non hanno non subiranno alcun svantaggio nel giudizio. A noi, infatti, non fu comandato di fare cose di cui siamo incapaci, né di prendere pesi gravi, né di edificare edifici, che i carpentieri innalzano per se stessi con saggezza, né di praticare l'arte di scolpire le pietre dure come, secondo la loro forza, fanno gli scalpellini, bensì ci fu comandato qualcosa che possiamo compiere. 84. Di astenerci dalla fornicazione, capo di tutti i mali, dall'omicidio in ragion del quale la maledizione venne su Caino, Dal furto che indusse Giuda Iscariota a impiccarsi. Dall'intemperanza che privò Esaù della sua primogenitura, dalla cupidigia perché chi le è soggetto non considera quello che fa, dalla vana gloria e dalla calunnia disgregatrice, da ogni azione cattiva e da atti vergognosi, dal detestabile connubio e dall'unione impura, ove c'è eterna condanna. Questa afferra con forza i superbi, e li getta giù nel sentiero più basso, li pone in suo potere di modo che non possano distinguere quello che fanno e le loro azioni siano essi stessi celate. 85. Voi, però, ascoltatemi e comportatevi con purezza preferita da Dio al di sopra di tutti i beni, e con temperanza perché ci mostra il connubio con Dio. E dalla vita eterna. Comportatevi anche con umiltà perché è stata pesata con ogni altra virtù ed è apparsa pesante sorpassando il peso delle altre e conquistandosi la corona, con dolcezza stendendo la mano al povero e provvedendo al bisognoso, ma soprattutto guardate di comportarvi con purezza, preferita da Dio. Essa ci dà accesso alla vita perpetua essendo al di sopra di tutte le virtù ed è per mezzo suo che si compiono tutte le buone opere, giacché colui che non è puro è incapace di compiere qualcosa di buono essendo che tutte le virtù vengono dopo la purezza. La purezza offre la visione di Dio e distrugge il male. La purezza piace a Dio ed è per questo che procede da Lui. La purezza è un atleta insuperabile. La purezza è la verità che non vacilla. La purezza è la torre che non crolla. Davanti a Dio la purezza è giudicata degna di essergli ancella, trovata da molti. La purezza è bellezza. La purezza distrugge la corruzione. La purezza è messaggera di concordia e apportatrice di novelle di pace. Chi possiede la temperanza è libero dalle cure quotidiane. La temperanza non si cura d'altro che di essere gradita al Signore. La temperanza è perseverante nella speranza, nell'attesa della liberazione. La temperanza se ne sta sempre tranquilla perché non compie nulla di cattivo. La temperanza cerca una vita pacifica, e gioia per tutti quanti la possiedono ed esalta quelli che le sono familiari. 86. L'umiltà ha soggiogato la morte e l'ha ridotta in suo potere. L'umiltà ha conquistato l'inimicizia, l'umiltà è un giogo leggero che non stanca coloro che lo portano, l'umiltà non teme nulla e non è dura verso alcuno, l'umiltà è concordia, è pace, è gioia e quiete. Acquistate la purezza, assimilate la temperanza e tendete verso l'umiltà. Giacché in queste tre virtù fondamentali che è ritratto il Cristo che io predico. La purezza, infatti, è il tempio di Dio e chiunque la custodisce, custodisce il suo tempio e Cristo abita in lui. La temperanza è la quiete di Dio. Giacché nostro Signore digiuò 40 giorni e 40 notti senza assaggiare nulla, e Cristo abita in colui che lo serva. L'umiltà è una grande forza, perché nostro Signore disse all'apostolo Simone: ritira la tua spada. Se io volessi chiamare la forza del Padre mio, egli mi invierebbe 12 legioni di angeli. 87. Migdonia è la moglie di Mazzdai. Mentre Giuda diceva queste cose, tutta la folla l'ascoltava premendosi l'un l'altro. E la moglie di Carisio, parente del re Mazzdai, balzò giù dalla lettiga, cadde a terra davanti ai piedi dell'apostolo e lo supplicò dicendo: ti supplico, apostolo del nuovo Dio venuto dall'abitazione degli uomini in un luogo deserto. Noi, infatti, abitiamo in un deserto perché viviamo come bestie senza parola. Ma ecco che ora siamo addomesticati dalle tue mani, di volgerti anche a me, di pregare per me affinché ottenga grazia da questo Dio che tu predichi, possa diventare una sua ancella ed essere unita a voi con la preghiera, con la speranza e con il ringraziamento, affinché possa ricevere il segno e divenire anche un suo tempio nel quale egli abiti. 88. L'apostolo rispose: prego e supplico voi fratelli in nostro Signore e sorelle di Cristo, affinché la parola di Cristo abiti e dimori in voi tutti, poiché a voi è stato dato il potere sulle vostre anime. Prese poi a dire alla donna: Migdonia, alzati da terra, pensa a te stessa, non interessarti dei tuoi ornamenti transitori, né della peritura bellezza della tua persona, dei tuoi abiti, del tuo nome e della tua dignità in questo mondo transituro. Non degradarti in questo sordido connubio privandoti dell'amicizia verace. Gli ornamenti, infatti, periscono, la bellezza si invecchia e muta, gli abiti si sgualciscono, la potenza passa accompagnata dal castigo, secondo la condotta di ognuno. Ed anche il connubio tramonta con grande disprezzo. Rimane soltanto Gesù, coloro che sperano in Lui si rifugiano e a Lui si affidano. Rivoltosi poi alla donna, disse: vai in pace, e il Signore ti renda degna dei Suoi divini misteri. Lei rispose: ho paura che tu mi lasci partire e poi te ne vada in un altro luogo. L'apostolo la assicurò: Gesù non ti abbandonerà, in virtù della sua misericordia. Inchinatasi, si prostrò davanti a lui, pensando che egli fosse Gesù, e se ne ritornò a casa contenta. 89. Carisio, parente del re Mazzdai, preso il bagno, era andato a cena domandando dove mai fosse andata la moglie che, dalla camera, non gli era andata incontro. Le di lei ancelle gli risposero: non si sente di venire. Egli entrò, allora, in camera. La vide coricata sul letto con la faccia coperta e la baciò. Poi le domandò: perché oggi tu sei angustiata e triste? Lei rispose: sono molto affaticata. Ed egli, perché non hai rispettato la tua posizione di donna libera, perché non te ne sei rimasta a casa invece di andare a sentire parole vane e a vedere sortilegi. Alzati, esci, cena con me, poiché io non posso cenare senza di te. Migdonia gli rispose: scusami se oggi non ceno e non dormo con te. Sono molto agitata. 90. Udito quanto aveva detto Migdonia, Carisio non volle lasciare la camera né per dormire né per cenare. Ordinò ai servi di portargli il vitto per poter cenare in presenza di lei. Quando fu portato il vitto e posto davanti a lui, egli le chiese di cenare, ma lei non volle. Allora mangiò solo lui. Carisio le disse: per causa tua, ho rifiutato di fermarmi a cenare dal mio signore, il re Mazdai, e tu rifiuti di cenare con me. Migdonia rispose: è perché non mi sento. Poi egli s'alzò per andare a letto e dormire com'era sua abitudine, ma lei gli disse: non t'ho forse detto che oggi mi debbo scusare, desiderando dormire sola? 91. Udite queste parole, se ne andò a dormire in un altro letto. Svegliatosi improvvisamente dal sonno, le disse: mia signora e sorella Migdonia, ascolta il sogno che ho visto questa notte. Mi sono visto seduto alla presenza del mio signore, il re Mazdai, e davanti a noi c'era una tavola. Vidi un'aquila scendere dal cielo e portare via una coppia di pernici davanti a me e al re, trasportandole nel suo nido, e ritornare poi nuovamente a librarsi sopra di noi. Il re Mazdai chiese che gli fosse portato un arco. L'aquila ritornò e portò ancora via davanti un colombo e una tortora. Allora il re Mazdai le scoccò una freccia che la trapassò da parte a parte, senza farle alcun male, ed essa se ne andò via al suo nido. Mi svegliai dal sonno agitato e tormentato a motivo della pernice che avevo gustato, senza poter proseguire a portarla alla mia bocca mentre in bocca non mi restava che il gusto. Migdonia gli rispose: il tuo sogno è buono. Tu mangi pernici ogni giorno, ma l'aquila non ne aveva, forse, mangiato mai fino allora. 92. Al mattino, Carisio, parente del re Mazdai, s'alzò di buon'ora e, vestendosi, si infilò la scarpa destra al piede sinistro e disse a Migdonia: ma che è questo? Prima il sogno e poi questa azione. Migdonia gli rispose: anche questo non è di malaugurio, ma di buon augurio. Da una cosa di malaugurio deriva qualcosa di buono. Lavatesi le mani, andò a salutare il re Mazdai. 93. Anche Migdonia, moglie di Carisio, s'alzò presto, andò a ossequiare l'apostolo Giuda e lo trovò seduto in conversazione con il generale e con una grande moltitudine. Egli diceva loro: figli miei, di chi è moglie la donna che ieri ricevette nostro Signore nel suo cuore e nella sua anima? Il generale gli rispose: È moglie di Carisio, parente del re Mazdai. Suo marito è un uomo difficile e in tutto ciò che dice al re è assecondato. Non permetterà che ella compia quanto ha promesso, giacché di lei ha detto al re molte cose gentili ed ha pure affermato che non c'è nessuna come lei. Lei pure gli vuole molto bene e le cose che tu dici loro sono estranee ad essi. Giuda replicò: se, nella sua anima, nostro Signore è veramente risorto e se ella ha accolto il seme che in lei è stato seminato, non terrà conto di questa vita né avrà paura della morte. Anche Carisio non potrà più farle cosa alcuna né permettere che soffra, già che colui che lei ha accolto nella sua anima è più grande, purché lei lo abbia ricevuto, una volta per sempre, con un amore perfetto. 94. Udite queste cose, Migdonia disse a Giuda. Davvero, mio signore, attraverso la tua preghiera ho ricevuto il seme vivo della parola e per mezzo del mio signore Gesù produrrò frutti simili al seme? Giuda rispose, queste nostre anime, che sono tue, ti lodano, o Signore nostro. Questi nostri spiriti, che sono tuo vero possesso, ti lodano, mio Signore. Questi nostri corpi, che tu hai reso degne di more del tuo spirito, sempre da glorificare, ti lodano, mio Signore. Sull'encratismo, rivolto a tutti i presenti, disse l'Apostolo, beati i puri, le cui anime non li hanno mai riprovati. Perché essi le hanno acquistate e in loro non alberga alcun dubbio. Beati gli spiriti dei puri, che hanno ricevuto la corona e dall'agone salgono verso il premio loro assegnato. Beati i corpi dei puri, fatti degni templi mondi nei quali dimorerà Cristo. Beati voi, puri, essendovi concesso di chiedere e di ricevere. Beati voi, puri, essendo chiamati giudici. Beati voi, puri, essendovi dato il potere di perdonare i peccati. Beati voi, puri, giacché non avete distrutto ciò che vi fu affidato, bensì, con gioia, lo avete portato in alto, insieme a voi. Beati voi, mansueti, poiché Dio vi ha reso degni di ereditare il regno. Beati voi, mansueti, avendo vinto il maligno. Beati voi, mansueti, giacché vedrete il volto del vostro Signore. Beati voi, temperanti, giacché sarete soddisfatti e godrete delle cose spirituali che non passano, che non si dissolvono e che sfamano coloro che di esse si cibano. Beati voi, temperanti, essendo liberati dal peccato. Mentre l'Apostolo pronunciava queste parole, tutta la moltitudine lo stava ad ascoltare, e Migdonia, moglie di Carisio, amico del re Mazdai, si fortificava grandemente nella purezza, nella temperanza e nella mansuetudine. 95. Mentre questi si rallegravano tutto il giorno nelle lodi e nella maestà del Signore, Carisio, Amico del re Matsudai, andò a pranzare e non trovò sua moglie a casa. Prese allora a domandare sue notizie ai servi. «Dove è andata la vostra padrona?» Uno di essi gli rispose, «È andata dallo straniero, e si trova là». Udito ciò dal servo, si sdegnò contro gli altri servi che non lo avevano informato su quanto era accaduto. Andò a prendere un bagno, ritornò che era ancora giorno e, sedutosi, attese Migdonia fino al suo rientro. Fattasi sera, ella ritornò e appena la vide gli le domandò, «Dove sei stata fino adesso?» Lei rispose, «Sono andata dal medico». Egli replicò, «Quel singolare illusionista è un medico?» Lei rispose, «Sì, è un medico, diverso da tutti gli altri medici. Questi altri medici, infatti, curano tutti dei corpi che si dissolveranno, mentre questo medico, con i corpi, cura le anime che non si dissolveranno mai più». All'udire ciò, Carisio, parente del re Matsudai, in cuor suo si sdegnò con Migdonia e con lo straniero. Tuttavia non le disse nulla. Egli aveva paura di lei, che gli era di molto superiore sia nella ricchezza che nell'intelligenza. Egli, dunque, se ne andò, entrò nella sala da pranzo e si sedette a cenare, mentre lei si ritirò nel suo appartamento. Egli disse ai servi di chiamarla a mangiare con lui. Ma lei non volle. 96. Saputo che lei non voleva uscire, andò da lei e le domandò, «Perché non vuoi venire a cenare con me? Non vuoi, forse, neppure dormire con me come d'abitudine?» Ho ancora più timore di questo dopo che ho sentito che quello stregone imbroglione è molto preoccupato di questo, che un uomo, cioè, non conviva con la propria moglie, volendo così privarci di ciò che dà gioia alla natura e fa piacere agli dèi. Mentre Carisio diceva queste cose, Migdonia se ne stava zitta. Egli allora proseguì, «Migdonia, sorella mia e amata signora e moglie, non ti lasciare ingannare da parole oziose e fallaci, né dagli atti magici che, a quanto ho udito, egli compie in nome del suo Dio. Infatti, dal giorno della creazione del mondo, non si è mai udito che un uomo ridoni la vita a un morto. Eppure, a quanto ho udito, quest'uomo agisce come se ridonasse la vita ai morti. Quanto poi al fatto che egli non mangia e non beve, non pensare che sia dovuto al suo amore per la giustizia, e perché non ha nulla. Che cosa può mangiare uno che non ha neppure il pane quotidiano? Indossa un solo vestito perché non ne ha un altro. Quanto alla ricompensa, egli non ne accetta da alcuno, sapendo che non guarisce nessuno. 97. Quando Carisio diceva queste cose, Migdonia restava zitta come un sasso, pregava e supplicava che si facesse giorno per poter andare a vedere l'apostolo di Dio. Egli allora la lasciò e se ne andò mestamente a cenare. Riteneva che, almeno, avrebbe dormito con lei come d'abitudine. Ma allorché se n'era uscito da lei, ella si inginocchiò e prese a pregare dicendo: «Mio Signore e mio Dio, Cristo, mio datore di vita, dammi la forza di vincere la temerarietà di Carisio e concedimi di mantenere la purezza della quale ti compiaci e per mezzo della quale troverò la vita eterna». Dopo avere pregato così, si scoprì la faccia e si pose a giacere. 98. Dopo avere cenato, Carisio andò da lei e si tolse i vestiti. Ella se ne accorse e gli disse: «A fianco a me, non c'è più posto per te, poiché il mio Signore Gesù, al quale mi sono unita, è migliore di te ed è sempre al mio fianco». Carisio rise e le rispose: «Tu prendi bene in giro quello stregone e deridi bene lui che disse: se non vi mantenete puri, non potete vivere davanti a Dio». Detto ciò, ebbe l'ardire di porsi a giacere a fianco a lei. Ma ella non lo sopportò e prese a gridare aspramente dicendogli: «Aiutami, Dio nuovo venuto in India per opera dello straniero. Aiutami, Signore Gesù. Non mi abbandonare, poiché mi rifugio in te. Ho udito che tu cerchi coloro che ti conoscono, ecco che io ti cerco. Ho sentito parlare di te e ho creduto in te, vieni in mio aiuto, liberami dall'insolenza di Carisio, non permettere che la sua impurità abbia il sopravvento su di me, non permettere che egli prenda posto al mio fianco». Poi ella s'alzò, legò le di lui mani, fuggì dal suo fianco e, strappata la tenda dalla porta della camera, vi si avvolse? Uscita, andò dalla sua nutrice, e quella notte dormì al suo fianco. 99. Carisio passò una notte molto triste, batteva una mano contro l'altra. Voleva andare dal re Mazdai per informarlo della violenza che gli era stata fatta, e pensava: «Se mi presento con la tristezza che sento, chi mi introdurrà dal re Mazdai? So bene che, se la fortuna non mi avesse abbandonato e abbattuto dal mio orgoglio, dalla mia grandezza e dall'alta mia dignità, e precipitato nel disprezzo e nell'umiliazione separandomi dalla mia diletta Migdonia, anche se il re Mazdai si fosse presentato, a quest'ora, alla mia porta, io non sarei uscito a rispondergli, ma avrei atteso il mattino. So che qualunque cosa dica, il re Mazdai mi asseconderà. Gli parlerò, dunque, della stregoneria dello straniero, come abbia agito violentemente e abbia precipitato in un abisso uno che era in alto. Io, infatti, non sono rattristato per il fatto di essere stato allontanato dall'unione con Migdonia, bensì sono addolorato per lei, perché la sua grandezza fu degradata, la sua libertà menomata, umiliato il suo alto spirito, perché la donna che nessuno dei suoi servi vide mai in collera fuggì nuda dalla sua camera e non so dove se ne sia andata. Sotto l'influsso della stregoneria dello straniero. Forse se n'è andata per la strada, ma non so con chi, già che di lei non si sa più nulla. 100. Prese poi a piangere, dicendo: guai a te, per amor tuo, mia vera consorte della quale ora sono privo. Guai a me, per amor tuo, mia amata e mia amante, che per me vali più di tutta la mia stirpe. Da te non ho avuto né un figlio né una figlia con cui potermi ricreare. Non hai ancora passato con me un anno, ed ecco un occhio maligno ti è distolto da me. Se, con la forza, la morte ti avesse strappato da me, mi sarei annoverato tra i re, tra i principi e tra i nobili, ma non proprio questo straniero, forse schiavo fuggito dai suoi padroni, venuto qui per essere la mia sfortuna. Non avrò mai riposo né mi arresterò fino a quando non l'avrò distrutto, fino a quando non l'avrò castigato e mi sarò vendicato di lui. Per questa notte non mi mostrerò al re Mazdai, ma se non mi accontenterà e non castigherà lo straniero, gli parlerò del generale Sifur, causa della rovina di questa donna. Ecco, infatti, che egli se ne sta a casa mentre molti entrano ed escono da lui che insegna la nuova dottrina della purezza. Insegna che un uomo non può vivere se non si separa da tutto ciò che gli appartiene e diventa un asceta, va mendicando come lui, che cerca di farsi dei seguaci. 101. Mentre Carisio meditava su queste cose, si fece giorno, si alzò di buon mattino, si vestì e si mise le scarpe. Indossò, tuttavia, ornamenti di messi. Il suo atteggiamento era oscuro ed egli molto triste. Andò ad ossequiare il re Mazdai ed appena il re Mazdai lo vide gli domandò: perché sei venuto da me in uno stato così miserabile? Perché è triste il tuo volto, ed è mutato il tuo atteggiamento? Carisio rispose: re Mazdai, ho un fatto nuovo da raccontarti e un nuovo disastro portato in India da Sifur. Un illusionista ebreo abita in casa sua, non si allontana mai da lui. Molti si recano là ove egli insegna loro il nuovo Dio e inculca nuove leggi che presso di noi non furono mai udite. Dice: non potete divenire figli della vita perpetua che io insegno se non vi separate, il marito dalla moglie e la moglie da suo marito. Ora avvenne che la mia infelice e misera moglie andò a vederlo e, udendo le sue parole, gli credette, di notte s'alzò e fuggì dal mio fianco. Lei che non poteva sopportare di rimanere lungi da me per una sola ora, lei che non poteva vivere senza di me. Manda, dunque, a prendere Sifur e l'illusionista nascosto presso di lui, e castigali. Altrimenti, a motivo delle sue parole, perirà tutta la nostra gente. 102. Udite queste cose dal suo parente, il re Mazdai rispose: non rattristarti e non tormentarti. Manderò a prenderlo e lo castigherò, e tu riavrai tua moglie. Ho reso giustizia ad altri che non potevano rendersela da soli, tanto più la renderò a te. Ordinò che fosse chiamato da lui il generale Sifur. Quelli che andarono a casa sua lo trovarono seduto a destra dell'apostolo di Dio, Giuda, mentre Migdonia sedeva ai suoi piedi e una grande moltitudine lo stava ascoltando. Avvicinato il generale Sifur, gli dissero: «Tu siedi e ascolti parole vane, mentre il re Mazdai, pieno d'ira, cerca di ucciderti a motivo di questo stregone seduttore che ha introdotto a casa tua». Udite queste parole, il generale rimase angustiato, non perché il re era in collera con lui, ma perché il re aveva saputo che egli andava d'accordo con l'apostolo Giuda. Sifur disse a Giuda: «Sono angustiato per causa tua. L'altro giorno ti dissi che quella donna era moglie di Carisio, parente del re Mazdai, e che egli non avrebbe permesso che ella mantenesse fede alle promesse, giacché qualunque cosa egli dica al re, è accontentato». Giuda rispose a Sifur: «Non temere, ma credi in Gesù, che prende le mie e le tue difese, e quelle di tutti coloro che si rifugiano in lui e vengono al suo luogo di riunione». A queste parole, il generale indossò gli abiti e andò dal re Mazdai. 103. Tommaso in prigione. Giuda domandò a Migdonia per qual motivo suo marito era irritato contro di lei e progettava tali cose contro di loro. Lei rispose: «Perché non mi sono data con lui alla corruzione. La notte scorsa, infatti, egli voleva soggiogarmi e assoggettarmi a ciò che era solito fare. Ma colui al quale mi sono affidata mi ha liberato dalle sue mani, io fuggii nuda dal suo fianco, me ne andai a dormire dalla mia nutrice. Non so cosa gli sia capitato per ordire queste cose contro di voi». L'apostolo le disse: «Figlia mia, queste cose non ci nuociono. Credi in Gesù ed egli frenerà le voglie di Carisio, ti libererà dalla corruzione e dalla lascivia. Egli ti sarà compagno lungo il sentiero pericoloso, ti sarà guida verso il regno suo e di suo padre, ti condurrà alla vita perpetua e ti darà quella sovranità che non passerà e non cambierà mai». 104. Quando Sifur fu davanti al re Mazdai, Mazdai gli domandò: «Qual è la sua storia? Donde viene e che cosa insegna quello stregone che trama contro di te?» Sifur rispose: «Non sa, forse, il mio signore, che io e tutti i miei amici eravamo in grande affanno per mia moglie, che conosci e che molti hanno in onore, e per mia figlia, per le quali io reputo un nulla tutto quanto possiedo?» La calamità e la prova che le colpì, e come fossero diventate irrisione e maledizione per tutto il paese. Io, dunque, sentii parlare di quest'uomo, andai da lui, l'interrogai. Lo presi e lo menai quivi. Mentre camminavo con lui sulla strada vidi miracoli strepitosi. Molti sono coloro che hanno visto e udito quanto disse un asino selvatico e ciò che un demone affermò di lui. Egli guarì mia moglie e mia figlia. Ed ecco che ora stanno bene, senza accettare ricompensa alcuna ad eccezione della fede e della purezza affinché possano essere partecipi di quanto egli compie. Egli insegna: temete un solo Dio, Signore di tutto, e Gesù Cristo, suo Figlio, e vivrete per sempre. Da una sera all'altra, non mangia altro che pane e sale, e beve acqua. Prega molto e Dio gli concede tutto quello che egli chiede. Egli rallegra anche noi, asserendo che il suo Dio è santo, buono, misericordioso, benevolo, datore di vita. E che quindi coloro che credono in Lui gli si devono accostare con mondezza, con purezza e con amore. 105. Udite tali cose da Sifur, il re Mazdai mandò alla casa del generale Sifur dei soldati che erano alla sua presenza affinché prendessero giù da Tommaso e quelli che avrebbero trovato con lui. Questi, entrati, lo trovarono seduto che insegnava a una grande folla mentre Migdonia era seduta ai suoi piedi. Vista la folla che lo circondava, ne furono impauriti e se ne ritornarono dal re Mazdai per dirgli: non osammo dirgli nulla perché era con lui una grande folla, ed anche Migdonia se ne stava seduta ai suoi piedi ascoltando le sue parole. Mazdai e Carisio udirono queste cose. Allora Carisio balzò dalla presenza del re Mazdai, prese con sé dei soldati e disse: andrò a prendere lui ed anche Migdonia, alla quale egli ha fatto perdere la testa. E si precipitò in casa del generale Sifur ed entrato trovò Giuda seduto che stava insegnando. Al suo ingresso egli vide Giuda ma non trovò Migdonia, che era tornata a casa sapendo che avrebbero riferito a suo marito che l'avevano vista là. 106. Carisio disse a Giuda: alzati malvagio, corruttore, nemico. Che cosa mi può fare la tua stregoneria? Le tue stregonerie le farò ricadere sul tuo capo. Dopo che egli pronunciò queste parole, Giuda lo guardò e gli disse: le tue minacce ricadranno su di te. Tu, infatti, non mi puoi nuocere per nulla, poiché come il mio Signore Gesù Cristo. In Lui io mi rifugio ed Egli è più forte di te, del tuo re di tutti gli eserciti. Carisio prese il turbante di uno dei suoi servi e lo gettò attorno al collo dell'apostolo, e disse: trascinatelo via. Vediamo un po' se Gesù lo libererà dalle mie mani. Fu trascinato via e condotto fino al re Mazdai. Quando Giuda fu davanti al re Mazdai, questi gli domandò: narrami la tua storia in potere di chi tu compi quest'opere. Giuda rimase zitto e non diede alcuna risposta. Allora il re Mazdai ordinò ai soldati che gli dessero 150 frustate, e che lo portassero legato in prigione. Essi lo legarono, e lo condussero via. Partito ed entrato in prigione, Mazdai e Carisio progettavano la maniera di ucciderlo, giacché tutto il popolo lo venerava come un dio. Si preoccuparono di fare sapere ovunque, ha vilipeso il re ed è uno stregone. 107. Ma, entrando in prigione, Giuda era allegro e contento, e diceva, «Grazie, Signore Gesù Cristo, di avermi reputato degno non soltanto di credere in te, ma anche di sopportare molte cose per amor tuo». Ed aggiunse, «Ti ringrazio, mio Signore, di avermi ritenuto degno di queste cose. Ti ringrazio, mio Signore, perché la tua provvidenza ha vigilato su di me e tu mi hai giudicato degno di sopportare molti mali per amor tuo. Ti ringrazio, mio Signore, perché per amor tuo sono stato un recluso, un asceta, un povero, un girovago mendicante. Possa io, dunque, partecipare alla beatitudine del povero, alla pace dell'afflitto, alla beatitudine di quelli che sono odiati dagli uomini, perseguitati e vilipesi, di coloro ai quali sono dette parole odiose. Ecco che per amor tuo sono odiato ed evitato da molti. Per amor tuo, dicono di me ciò che io ignoro. 108. Tutti quelli che erano in prigione, vedendolo pregare, lo supplicarono di pregare anche per essi. Dopo aver pregato, Giuda si sedette e prese a cantare quest'inno.